allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues, oggi con un quarto d'ora accademico. Si sa, con la primavera ce la prendiamo con calma, con molta calma. Eh sì, perché mentre ieri sembrava Natale, oggi è primavera qua in quel di San Lorenzo. Quindi la temperatura giusta per rifocalizzarci sul Sunsplash, come già abbiamo fatto il mese scorso. Reggae Sunsplash, storico festival dell'isoletta di Giamaica nel West Indies Caraibi. Dove si sono esibiti più o meno tutti i più noti e i meno noti artisti giamaicani, nato proprio per promuovere l'isola di Giamaica e poi evolutosi in un vero e proprio festival musicale. Ha itinerato un po' per il mondo, ha ospitato in alcune sue edizioni anche altre musiche oltre il reggae, insomma un festival policulturale. Detto anche il Woodstock del reggae, anche perché appunto si teneva nei mesi estivi, a luglio, ad agosto, che tradizionalmente sono i mesi di bassa stagione in Giamaica, e soprattutto fino alla fine degli anni 70, quando comunque gli alberghi chiudevano per effettuare appunto lavori di ristrutturazione o di manutenzione, quindi anche chi lavorava appunto nell'ambito del turismo, che era poi la principale fonte di guadagno per la Giamaica, erano tutti stagionali. E così proprio alla Jamaica Tourist Board venne l'idea di appunto fare della Giamaica un posto in cui si poteva andare anche ad agosto e non solo nei mesi freddi del Nord America, e appunto che invece in Giamaica era estate. Allora, in questa puntata cominciamo dal 1979 e cominciamo con Peter McIntosh. Peter Tosh, questa è la sua Legalize It, Reggae Sunsplash. Don't you Sunsplash, che nasce nell'anno prima di questa esibizione di Peter Tosh nel 1978 per opera di quattro giamaicani: Tony Johnson, Don Green, Ronnie Burke e John Welling, che avevano appunto creato una società denominata Synergy Production, e che era appunto incaricata di promuovere e produrre questo festival, che inizialmente non trovò l'appoggio del governo, in quanto comunque volevano appunto attirare una classe ricca in Giamaica, e invece i temi che parlavano, che trattava il reggae in quell'epoca soprattutto, erano temi sociali, erano temi dei rude boy, e anche comunque il giamaicano di classe media non era poi ancora appassionato alla musica reggae. Tra l'altro la prima edizione gli andò particolarmente male, non perché non ci andò gente, ma perché tutti scavalcarono, passarono i cancelli, addirittura gli fu pignorata la macchina agli organizzatori. Eh sì, perché comunque innanzitutto non avevano neanche l'esperienza di promuovere un festival reggae, che comunque non era una cosa facile. E tra l'altro all'inizio la volontà era quella di fare un festival di musica reggae, sì, ma anche di musica disco, che era quella che andava in voga in quegli anni negli Stati Uniti. Ma loro si opposero, dicevano appunto di voler sviluppare la musica indigena, e quindi comunque il nome proprio Reggae Sunsplash non lasciava dubbi sulla qualità e sul tipo di musica che veniva proposta, anche se inizialmente appunto era allargata anche alla musica jazz, e fu protagonista anche Monty Alexander, un pianista jazz però nato a Kingston. Il nome Sunsplash, che evoca appunto il sole che fa splash nell'acqua, deriva dal fatto che il festival cominciava la sera ma finiva la mattina dopo, quindi con l'alba. Diciamo che il reggae era comunque famoso nel mondo già nel 1969. Israelites di Desmond Dekker si ascoltava in Inghilterra, e poi ricordiamo anche nel 1972 il successo in America di Jimmy Cliff con il film The Harder They Come, e ovviamente anche Bob Marley. This one is taken from Steel Pulse nel 1981. No flash, no breeze, no dash, and bubble and a crash. And that's why they got to be on revolution. Yes, foolish to build it on the sand, as it shall stand firm like chalk. Fighting back, we was beggars and now choosers. No intention to be losers. Striving revolution. dichiarava Tony Johnson, che era appunto l'anima della Synergy. E abbiamo sentito il bisogno di un incontro spontaneo, culturale, proprio di un festival. L'indipendenza ad agosto era più di una celebrazione del conseguimento nazionale e della nazione, ma non aveva la spontaneità di un'esplosione culturale. La musica reggae invece riflette gli aspetti spirituali e culturali della nostra gente, e attraverso tutto questo vengono fuori altri aspetti della nostra cultura. E abbiamo così creato questa Synergy per avere qualcosa di totalmente indigeno. E di contro volevamo anche dimostrare che la musica reggae aveva un appeal internazionale e l'industria musicale era stata gravemente trascurata ancora in Giamaica. E così anche la scelta di collocare il Reggae Sunsplash a Montego Bay per l'atmosfera e per il numero di camere d'albergo nelle città. Tra l'altro l'organizzazione faceva un lavoro pionieristico pure di promozione degli artisti, c'erano conferenze stampa prima dei concerti, addirittura le biografie degli artisti, che in Giamaica era una cosa totalmente anacronistica, già in giro per il mondo era abbastanza raro, oggi ovviamente con internet è tutto differente, però... Questo sì, in realtà dalla seconda edizione del 1979, quella in cui il protagonista era Bob Marley, e invece la prima edizione era appunto del 23 giugno del 1978 ed era un festival totalmente privo di esperienza, e anche per esempio il luogo dove appunto si teneva, e loro presero appunto un campo di calcio non ancora finito, senza servizi e senza neanche le strutture sanitarie e adeguate, e questo era appunto il Jarrett Park, che non aveva neanche le luci esterne, nessuna via di fuga, e tra l'altro tutti i giamaicani si riversarono in questo festival scavalcando le reti di recinzione, e quindi economicamente fu un flop per loro, ma molti giornalisti che erano attratti soprattutto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito fecero delle ottime recensioni per quel che riguardava l'aspetto musicale, e quindi poi già l'anno seguente fu veramente un successo. Festival inaugurale comunque che comprendeva alcuni nomi veramente altisonanti. Jimmy Cliff era l'artista più noto, ma anche John Holt, Inner Circle, Jacob Miller, gli Heptons, e invece Buddy Weller aveva rifiutato di partecipare a questo show, e anche il manager di Marley, Don Taylor, non aveva fatto esibire il suo artista che poi invece i quattro organizzatori conobbero nel febbraio del 1979 per l'allestimento di quel One Love concert, e quindi poi lo convinsero a partecipare nell'estate del 1979. E adesso passiamo a un poeta dell'isola di Giamaica, sto parlando di Muta Baruka, live nel 1982. Yeah. We have a story to tell, you know. We have a story to tell. You have a guy named Marco Polo. Marco Polo was an Italian, and he decided that he would try to discover new worlds for Italy. So he went into China and said that he discovered gunpowder. Now here's our next Italian guy named Mussolini. Now Mussolini, he also wanted to get lands for Italy. So he went into Ethiopia and ravished Ethiopia. We have a next guy now, him named Christopher Columbus. He was also an Italian. Now the thing, all the difference between Christopher Columbus and the other race of guys was that Christopher Columbus knew that the world was round before anyone else in Europe. So he decided that he would go out and prove to the Europeans that the world was round, not square. And he also wanted to discover India. But he, being the fool he was, decided that he would travel west to reach to the east. Well, we know that what goes around must come around. So I went to a little girl named Isabella and got some ships and decided that he would venture out into the new world. Well, when he reached Aunt Ear, he saw some people with long hair and he thought that he was in India. So he called it the West of India, or the West Indies. And up to this day, that mistake is still written in our history books, that we are West Indians. un reggae sunsplash per un periodo, è stato aperto anche altri generi musicali. Lui e G. Scott Aaron nel 1983. About 6 years ago, I said to you, I hope you see on the islands one of these days, and here you are now. Right, all it took was 6 years. And we understand there's some people out there that's familiar with a rhythm called Owamanko. Owamanko is the African rhythm of rebirth and regeneration. It's named after the snake, because people used to feel that the snake could shed its skin every year and appear to be reborn. So the rhythm for rebirth and regeneration became synonymous with the name of a snake. Owamanko, Owamanko, got me, feel like won't let go. We'd like to include you into our rhythm of rebirth and regeneration for the inspiration that you have given us. And for the love that you have shown us over the time that we have been here, we truly appreciate that from the bottom of our hearts. And we thank you not only for the music, but for the good vibrations, and for the feeling of brotherhood that has permeated this entire island for the last week or so that we've been around. And we want to thank you with a rhythm we call Owamanko, rhythm of rebirth and regeneration, and the song is called The Bottle. Larry McDonald, rhythm master on percussion, for the Kenny Powell on drums. One more go, got me, won't let go. Said it, one more go, got me, get you. Said it, one more go, got me, won't let go, got me, won't let go. Brother Robert Gordon on the bass. Get down in the summertime. Yes, we get down in the summertime. Make you lose your mind. Get ready on. Artisti stranieri, ma anche e soprattutto turisti e addetti ai lavori. Già nel 1979 erano 120 giornalisti in Giamaica per il secondo Reggae Sunsplash, provenienti da Giappone, Italia, Svezia, Germania, Spagna, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. E mentre le notizie negative apparse sulla stampa riguardo la difficile situazione politica in Giamaica, che vedevano vuote le stanze degli alberghi durante anche la tradizionale alta stagione turistica, il Reggae Sunsplash invece già dal 79 riusciva a riempire Montego Bay. E così poi nel 1980 invece dal 2 al 5 luglio si svolse la terza edizione in quel di Kingston, mentre invece il 1981 è di nuovo vede il ritorno a Montego Bay, però in una situazione ben diversa. Fu costruita una recinzione e molti più servizi, e così anche la comunità di Montego Bay accolse con favore questo festival, che in realtà stava proprio promuovendo la cultura giamaicana. E ancora la svolta è quella del 1981, qualcosa come 26 tonnellate di equipaggiamenti sonori e luci furono importate dagli Stati Uniti, e per la prima volta la manifestazione venne registrata e ripresa con le telecamere, e la musica ovviamente si sentiva ogni notte fino all'alba. So was fine, before you started thinking that why for the time. So me, old man committed a crime, he's doing time, and now she's hanging to the bottom. I'm there on the avenue all by herself, so need a help from the bottom. I see her, she's a man trying to help her out, cut them out, get him in the head with the bottom. Don't you think it's a crime? Get away. Time out. People in the bottom. People living in the bottom. Oh, that's just gonna be gold suit. That's just gonna be gold suit. That's just gonna be gold suit. if they went to my garden, I'm proud of them. I'm feeding to you, folks in competition. Tripping of the dollar, he goes, said what's doing, Doc, it ain't legal. And now he's the father. Yes, yeah, now we've got to make the baby stand and say, this is the way to pop on her. Turn to me and he said, give me her now. Don't you think that you cry? Yeah, the way to time out to find in the bottle. If people live in the bottle, they got to stay home. Allora, rimaniamo nel 1983, ma passiamo alle serate reggae. Lei è una regina, Rita Marley, e questa è la sua traccia storica, One Draw. A giugno ci sarà un'altra cantante che ha collaborato tra l'altro con Rita Marley, è stata nelle High Trees insieme alle coriste di Bob Marley, sto parlando di Marcia Griffith, che suonerà l'8 giugno qua a Roma, quindi una serata imperdibile. Anche lei è stata protagonista di diverse edizioni del Reggae Sunsplash già dal 1979, appunto, quando era la corista insieme a Rita Marley di Bob Marley. Hey, what you say? I can't believe the women is a sensei. Yeah, police! e rimaniamo nel 1983. Lui ha Anton Ellis. Sarà l'83 che si è tenuta dal 28 al 2, dal 28 giugno al 2 luglio, e si svolse per la prima volta al Montigo Freeport, in uno spazio chiamato Bob Marley Performing Center, e che poi in realtà non era altro che un'estensione di terra deserta alla fine di una penisola che appunto lì si videro installate proprio solo le infrastrutture necessarie: elettricità, impianto idraulico e i varchi di accesso. Erano gli anni Ottanta e cominciava a fermarsi la dancehall, così anche nuovi artisti. Lui è Sugar Lincoln, Why Not. Rasta, Gianluca. Who feels it, knows it, yo. Who feels it, knows it, yeah. Oh, what a rush, oh, what a rush, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what a rush, oh, yeah. So Bobby London, just a mashup, yeah. So Bobby London, just a mashup, yeah. So Bobby London, just a mashup, yeah. Bobby London, just a mashup, yeah. Every day, things get harder, ain't harder. It's getting kinda hard now. Still, I keep my vision of being in the days to come. Oh, yeah. It's not hard to see the love that dwells in me, but this life is enough for me. Oh, what a rough life. We've all been in justice, rain and love since the beginning. I taste it all the day. Oh, no. M16, so jump on the scene. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. War style, war style. I'm Manuel Mustal, I have no style. See it? You don't wanna. She screams, make no riot. David used a stone, and kill Goliath. E sono gli anni in cui il festival prende sempre più piede, non solo in Giamaica ma in tutto il mondo. E così nel luglio del 1984 si tenne anche un'edizione ridotta del Reggae Sunsplash al Crystal Palace di Londra. E oltre ovviamente alla settima edizione dal 7 all'11 agosto del 1984 al Jarrett Park. E poi ancora nel 1985 viene lanciato il Reggae Sunsplash World Tour, che comprendeva tappe negli Stati Uniti e in Giappone. E poi ancora negli anni successivi il festival ha percorso il Nord America, l'Europa, Sud America e anche l'Estremo Oriente. E noi ci ascoltiamo proprio una traccia catturata a Londra nel 1984, ospiti erano gli Scatalites. Se vi state sintonizzando solo ora, vi ricordo che potrete ascoltare fra poco il podcast di questa puntata, come tutte le altre puntate. Lo trovate sul magnifico sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo anche le pagine social di Attica Blues, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete una playlist di oltre 60 ore di musica nera. Ci sono anche gli Scatalites? Ci sono anche gli Scatalites. Noi vi rimandiamo a giovedì prossimo, ma rimanete sintonizzati perché ora c'è la Eschina del Soul. Dedicheremo altre puntate al Reggae Sunsplash. Reggae Sunsplash che poi dal 1996 non si è più tenuto. Anzi sì, forse ci fu un'edizione nel 98 che fu ovviamente un flop, e quindi un Reggae Sunsplash, un festival che ai noi non si tiene più.